Radio 24 Reportage. Il segreto dei talebani di Cristina Balotelli. Hassan Javed Khan, 35 anni, proprietario di campi di mango, è uno dei 1200 Pashtun Afridi che vivono a Maliabad, distretto di Lucknow, undicesima città dell'India per grandezza. L'etnia Pashtun, la stessa dei Taliban di Afghanistan e Pakistan, è minoritaria in questa regione dell'Uttar Pradesh. Secondo alcuni ricercatori, i Pashtun dell'India, cugini dei guerriglieri dell'Afghanistan, sarebbero i discendenti degli israeliti. In altre parole, ci sarebbe un collegamento genetico tra i Pashtun di Maliabad e le tribù israelite che centinaia d'anni fa attraversarono l'Asia. Un legame che va ancora approvato scientificamente, ma che ha suscitato l'interesse del Ministero degli Esteri di Israele, che sta finanziando alcune ricerche di studiosi indiani che vanno in questa direzione. Le prospettive che potrebbero aprirsi sono dirompenti. Non è un motivo di imbarazzo per me se mi viene detto che i miei antenati discendono originariamente dalle tribù israelite. Non c'è nulla di cui vergognarsi. Ma al tempo stesso sono contrario a come Israele tratta i palestinesi, perché ogni nazione ha diritto alla libertà e a combattere se le viene negata. Come indiano sono cosciente di quanto è doloroso essere dominati da un occupante straniero, accettare le sue leggi, così come è stato per noi con la dominazione britannica. Hassan Javed Khan è musulmano e parla l'urdu, come tutti gli abitanti di Maliabad. Tradizionalmente i Pashtun sono grandi guerrieri, ma qui si dedicano alla coltivazione dei campi di mango che hanno reso famosa la regione. Si dice infatti che qui abbiano un sapore unico. Restano tuttavia molto legati al loro antico codice d'onore. La differenza principale tra i Pashtun e il resto della popolazione di questa città è il codice d'onore, che è stato tramandato alle future generazioni dai nostri antenati provenienti dall'Afghanistan. Il codice d'onore è ancora molto vivo in Maliabad. Si riflette in quasi tutti gli aspetti della vita dei Pashtun. I tre principali pilastri sono vendetta, ospitalità e rifugio, che viene offerto a chiunque lo chiede. Quali sono le altre caratteristiche dei Pashtun? Il senso dell'ospitalità e lo stile di vita dei Pashtun li rendono molto diversi dalle altre popolazioni. L'ospitalità, innanzitutto. Non importa quanto povero possa essere un Pashtun, se gli fai visita, cercherà di offrirti qualsiasi cosa abbia. È parte integrante della nostra cultura. È nei nostri geni fare il massimo per gli ospiti, non solo accogliendoli in casa, ma anche aiutandoli se ne hanno bisogno. Alcuni storici sostengono che gli antenati degli Afridi, centinaia d'anni fa, sono stati sradicati dal loro luogo di nascita nel territorio che oggi corrisponde ad Israele. Quindi hanno percorso migliaia di chilometri, hanno attraversato l'Afghanistan in mezzo a mille difficoltà e si sono stabiliti nel nord dell'India. Solo una piccola parte di loro ha messo radici a Maliabad. Il resto ha preferito le zone montagnose dell'Afghanistan e del Pakistan. Per un occidentale è senz'altro più facile parlare con i Pashtun Afridi dell'India che con i loro cugini afghani o pakistani. Il dottor Navras Jaat Afridi, 30 anni, è un discendente della tribù dei Pashtun Afridi, come si evince dal suo cognome. Le reazioni sono state varie. Alcuni di loro vedono questa mia ricerca con grande scetticismo e sospetto, convinti che dietro vi sia in qualche modo lo zampino sionista, allo scopo di convincere i Pashtun delle loro probabili origini israelite. Poi verrebbero persuasi ad abbracciare il giudaismo e ad immigrare in Israele, consentendo così allo Stato ebraico di disporre di manodopera a basso costo o di persone note per il temperamento incline alla guerra da insediare nelle zone più calde contro gli arabi. Quindi una delle principali reazioni dei musulmani è di vedere questa tesi come un tentativo sionista di privare l'Islam dei suoi discepoli più coraggiosi, i Pashtun. L'altra reazione è di grande interesse di alcuni Pashtun nei confronti della teoria sulle origini israelite. Indicazioni importanti di una possibile riconciliazione tra ebrei e musulmani se il legame tra Pashtun e tribù israelite dovesse essere scientificamente dimostrato. A possible Jewish-Muslim reconciliation. Musulmano e Pashtun da parte di padre, indù da parte di madre, il dottor Afredi studia da anni la propria gente. Ma la sua tesi non piace alla maggior parte dei membri della sua tribù, musulmani, da generazioni. Ha mai ricevuto minacce? No. No, non ho mai ricevuto minacce da nessun ambiente religioso. Sono stato vittima di aggressioni verbali, ma niente aggressioni fisiche. Penso che dipenda dal fatto che io stesso sono un Pashtun. Non lo fossi stato, avrei potuto essere aggredito fisicamente, sarebbe stato probabile. Fossi stato un Hindu, non avrei mai potuto fare questa ricerca perché è impossibile portarla avanti senza interagire con la popolazione Pashtun. Israele ha finanziato il suo post-dottorato all'Università di Tel Aviv. Lui è convinto che i suoi antenati, che misero radici tra i campi di mango di Maliabad, sarebbero in realtà discendenti degli israeliti. Il mio lavoro include anche una ricerca a livello genetico. Insieme a un genetista indiano, Shen Zali, abbiamo raccolto nell'ottobre 2008 alcuni campioni di DNA dei Pashtun di Maliabad. Se non fossi uno di loro, non avrebbero mai accettato di farsi prelevare campioni di DNA. They would have never agreed to give their DNA samples. Quali risultati si aspetta dalle analisi? Penso che i risultati proveranno la discendenza di questi Pashtun delle tribù israelite. Queste popolazioni, che probabilmente erano anticamente israelite, si stabilirono in Afghanistan circa 2721 anni fa. Prima di insediarsi sono state esiliate, hanno vissuto per un po' nell'Iraq del Nord, poi in Iran per un periodo di tempo e finalmente in Afghanistan. La più antica presenza Pashtun in Afghanistan risale, secondo gli storici, al VII secolo. Andiamo a sentire un po' di pareri tra i Pashtun di Maliabad. Qualcuno è aperto al dialogo, come Hassan, ma i pregiudizi sugli ebrei e Israele non mancano. Apprezzo molto gli sforzi del dottor Ajat Afredi nella direzione di una riconciliazione tra ebrei e musulmani. Sono assolutamente a favore di un dialogo e questo mi distingue dal resto dei Pashtun che vivono qui. Sarà perché ho viaggiato molto. Sono stato in Medio Oriente e in Iran, ampliando i miei orizzonti intellettuali. Io credo che i musulmani siano arrivati a un bivio. Devono scegliere tra violenza e resistenza o andare avanti con lungimiranza verso il progresso. È questo il sentiero che preferisco. I musulmani dovrebbero pensare all'istruzione, alla professionalizzazione, al progresso e non al terrorismo come Osama Bin Laden o il Mullah Omar. Solo nel dialogo si possono trovare le soluzioni a tutti i problemi, non nella violenza. La sua ricerca potrà facilitare il dialogo tra gli israeliani e i Pashtun di Maliabad, un primo passo per esplorare nuove vie di cooperazione che possono portare benefici a entrambi. A Maliabad c'è benessere e cultura. Molta della migliore poesia, letteratura e lingua urdu è nata qui. Siamo ospitati per un tè nella bellissima casa di una famiglia di Pashtun. Il capofamiglia, Pervez Khan, ha incorniciato e appeso al muro l'articolo di un giornale dal titolo significativo. È questa la tribù perduta di Israele? Racconta della ricerca del dottor Afredi. E nella foto c'è anche Pervez. Le sono grato per essere venuto a Maliabad. La sua presenza qui mi rende felice perché mostra come l'Occidente comincia a conoscere questo luogo e la sua gente. Sono inoltre molto grato a Navras che con i suoi studi sui Pashtun ha fatto conoscere Maliabad al resto del mondo, generando interesse. No. Zarina Khan prova un vero e proprio odio nei confronti di Israele e perfino dell'India. Infatti dice di sostenere il Pakistan. Non è per niente contenta di sapere che la sua famiglia potrebbe discendere dagli israeliti, quel popolo che considera all'origine di tutti i mali. Io sono al corrente di quanto è successo a Sabra e Shatila in Libano, quel tremendo massacro di palestinesi. Per questo odio fortemente Israele e non posso proprio sentire nominare gli ebrei o Israele. Sono stati massacrati 20.000 musulmani. Non posso dimenticare. Sento ancora il dolore per quella strage. Quindi non voglio sentir parlare di riconciliazione con gli ebrei. La ricerca del dottor Afredi per me non vuol dire nulla. Mi dà fastidio. La cosa per me più importante è la mia identità musulmana. Tutto il resto è secondario. Non mi preoccupa altro, quindi non vorrei commentare nient'altro. Sensitive usko issue ko iske bare mein main bilkul bhi roshni nahi dalna chahta.